Modena 1977, mandato a I. Cristiano. Chi è disposto oggi a fare qualche offerta all'Eterno? Questa domanda la pone Davide in occasione della costruzione di uno tempio. 1 Cronache 29, 5. Dal momento che per la realizzazione di quest'opera occorreva molto materiale tra cui oro e argento, così come si fa in tutte le nostre chiese quando ci è una necessità, Davide chiede ai presenti se siano disposti a fare qualche offerta. Ma la bellezza e la singolarità di questa domanda risiede nel fatto che Davide la fa dopo aver egli stesso dato ampio esempio. Ecco le sue parole: siccome io possiedo in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio, oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario. In seguito esorta il popolo alla liberalità. La scrittura ci pone davanti questi meravigliosi esempi, perché impariamo o ricordiamo che prima di chiedere agli altri dobbiamo dare l'esempio e, carnale, chiedere ciò che non si è disposti a fare. L'Apostolo Paolo aveva certamente davanti a sé questa verità quando disse agli anziani di Efeso: «Badate a voi stessi e a tutto il gregge, chi ha delle responsabilità vi ponga mente, e al suo figliolo, Timoteo, bada a te stesso e all'insegnamento, prezioso comandamento per chi predica». Quindi è lecito preoccuparci della spiritualità del prossimo solo se esaminiamo del continuo la nostra. Applicando questo principio, anziani predicatori e credenti di ogni genere eviteranno molti errori e molti dolori. Che oggi tu possa fare la sapiente offerta di una vita cambiata nell'interiore, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Ellero.